Ecco, buongiorno, sono Luca, oggi è il 12 agosto 2020. Commentiamo insieme questa notizia del Corriere della Sera che Luca Zanette ha posto all'attenzione di tutti. Notate che l'esecutivo, il governo, se ne infischia allegramente di due cose. Primo è il principio di proporzionalità, che è patrimonio del diritto comunitario e del diritto nazionale. Secondo, il concetto di letalità e mortalità. I due punti sono collegati, nel senso che il principio di proporzionalità deve orientare l'agire della pubblica amministrazione, del potere esecutivo, di chi amministra la cosa pubblica. Nel sito 11 marzo 2018, Verona Cittadini Sovrani, trovate un riferimento nella pagina dedicata all'azione civica dell'istanza del Ministro dell'Istruzione, che fa riferimento a un saggio della professoressa Albanese. Professoressa che in un saggio dedicato al cosiddetto principio di proporzionalità dimostra cosa vuol dire applicare questo principio, quali sono i doveri della pubblica amministrazione nei confronti dei diritti dei cittadini. Leggetelo con grande attenzione. Perché il principio di proporzionalità non viene rispettato dalle autorità? Lasciamo un attimo da parte la questione della violazione della riserva di legge, che comunque è un fatto innegabile che non solo decine e decine di avvocati hanno sottolineato, ma anche magistrati italiani. Che poi formalmente non ci sia un atto giudiziario che lo stabilisca per iscritto che il governo e il Parlamento hanno violato la riserva di legge è un altro fatto ed è chiaro a tutti. Ma viviamo i tempi di un golpe normativo, come ha detto Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale. Diversi presidenti emeriti della Corte Costituzionale, tra cui il dottor Mirabelli, alcuni giorni fa si sono pronunciati mostrando che ci sono delle anomalie e che c'è una deriva autoritaria in atto praticamente, perché i diritti vengono conculcati e sono diritti costituzionali. Il concetto di letalità e mortalità non è compreso dalla maggior parte dei mass media, ma devo dire la verità che anche alcuni addetti ai lavori sembrano ignorare cos'è la letalità e cos'è la mortalità. Allora, non intendo fare una lezione questa mattina, ma sono concetti epidemiologici che sono fondamentali. Quando si parla di epidemiologia i mass media hanno una responsabilità enorme e lo stesso hanno i decisori politici, devono discriminare tra letalità e mortalità. Il virus SARS-CoV-2 è un virus, un agente patogeno opportunista, che ha causato una malattia in Italia che è a bassissima mortalità. Sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, quando lo stesso Ministero della Salute ha messo per iscritto sulle pagine del proprio sito, onestamente, nella primavera 2020, che SARS-CoV-2, nel momento in cui veniva redatto l'informativa sul sito del Ministero, era una malattia a bassissima mortalità e a discreta letalità. Mortalità e letalità sono concetti differenti. La mortalità è rapportata all'intera popolazione. Guardate l'età mediana dei decessi di chi è infetto da SARS-CoV-2 e quindi ha contratto o potrebbe aver contratto la Covid-19 e vedrete che l'età mediana oscilla per i maschi tra 79 e 80 anni di età. Il principio di proporzionalità prevede che tutte le misure di restrizione a certi diritti debbano rispondere al principio di proporzionalità. Questa malattia ha, ammesso e non concesso abbia un nesso causale con una categoria particolare di persone, un rischio, e l'altra grande fetta della popolazione ha un rischio completamente diverso. Per cui, ad esempio, i bambini, gli infanti, i bambini, gli adolescenti, coloro che sono in età puberale, mostrano una reazione alla malattia asintomatica, paucisintomatica, e gli unici quattro decessi al di sotto dei 12 anni che cita il Comitato Tecnico Scientifico nel suo verbale del 28 maggio avevano un quadro clinico di preesistenti patologie gravi. Quindi è tutto da dimostrare che il Covid-19 li abbia spediti dall'altro mondo, anzi, mi verrebbe da dire. Stiamo assistendo, purtroppo, a causa dei mass media, a una narrazione mistificante. L'espressione narrazione mistificante non è mia, l'ho mutuata dalla lettera appello dei 20 magistrati italiani che ponevano l'attenzione con la loro lettera appello diffusa dall'Agenzia Radicale sulla violazione della riserva di legge. Guardate che la situazione non è grave, è gravissima, perché è in atto una deriva autoritaria, un'emergenza democratica, e come ho detto il 27 giugno 2020 in piazza Primo Maggio a Udine, voltandomi verso i carabinieri, i poliziotti, tutti coloro che onestamente, col sudore della loro fronte, garantivano l'ordine pubblico e la sicurezza in piazza Primo Maggio, le forze dell'ordine hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana. Hanno giurato fedeltà per proteggere la Costituzione della Repubblica Italiana. Abbiamo decine e decine di magistrati, avvocati, che sottolineano che è stata violata la riserva di legge. Significa che i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono illegittimi, perché se viene violata la riserva di legge è stato compiuto un abuso. L'abuso l'ha compiuto il Parlamento insieme al Governo. Le autorità hanno violato la riserva di legge. Chi è a digiuno dal punto di vista giuridico si studi cosa vuol dire riserva di legge. I concetti di letalità e mortalità devono essere chiari ai decisori politici, dai presidenti di regione, ai ministri. Non hanno chiaro cosa vuol dire letalità e mortalità a livello epidemiologico. Ci sono malattie che si comportano in modo analogo alla Covid-19 e per questo non vengono imposte restrizioni o compressioni dei diritti fondamentali. Quindi due pesi e due misure. Questa malattia in popolazione pediatrica si è dimostrata a decorso benigno. Questa cosa è stata messa per iscritto in un articolo uscito a marzo 2020. Un articolo su una pubblicazione pediatrica, su studi epidemiologici, una malattia a decorso benigno. Stiamo veramente perdendo il lume della ragione e chi siede in posizione di comando e di potere dimentica che nel mondo della sanità esiste il problema della mala sanità, degli eventi avversi rispetto ai farmaci e dei cosiddetti fenomeni iatrogeni, per cui io cerco di curare qualcuno e alla fine peggioro il suo quadro clinico, addirittura si può arrivare alla morte. Gli effetti iatrogeni sono agli atti, nella letteratura medico-scientifica. Esistono condizioni diverse di inquinamento ambientale, di elettrosmog, ed esiste tutta una politica di cura della persona che varia da regione a regione, per cui ci sono regioni dove gli anziani si affidano di più ai consigli delle autorità sanitarie. E quindi che cosa? E quindi è ovvio che persone già vulnerabili che si sottopongono a massicce dose di farmaci possono essere ancora più vulnerabili nei confronti di una sindrome semi-influenzale come la Covid-19. Mi auguro di cuore che chi di dovere veramente si metta una mano sulla coscienza, perché stiamo ipotecando il futuro non solo dei nostri figli, ma stiamo ipotecando il futuro del nostro paese, perché ci sono milioni di persone in cassa integrazione, ma soprattutto imprenditori, liberi professionisti con partita IVA, ma imprenditori italiani delle piccole e medie imprese che sono in ginocchio a causa delle restrizioni che sono state fatte. Mi auguro veramente che chi di dovere si metta una mano sulla coscienza, perché quello che sta succedendo sta creando le premesse per un disastro che potrebbe prolungarsi per anni, un disastro di proporzioni inimmaginabili dal punto di vista occupazionale, economico, sociale. E metto in luce che a febbraio 2020 le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute dicevano, tra il febbraio e il marzo 2020, che le mascherine dovevano essere indossate solo dalle persone che avevano sintomatologia. Questa cosa era messa per iscritto, quando la curva epidemiologica era in salita. Vedete la contraddizione in termini delle autorità sanitarie, che oggi impongono le mascherine a milioni di persone sane, asintomatiche, quando la curva epidemiologica comunque non solo è molto più bassa, ma soprattutto i casi di terapia intensiva e i casi effettivamente gravi non sono più i numeri della primavera del 2020. Vi auguro di cuore di trascorrere felici giornate in questo agosto 2020 e di staccare la spina e di guardare il mare, guardare il cielo e ricordarvi che siamo solo di passaggio su questo pianeta, che altri sono venuti prima di noi e altri verranno. Cerchiamo di rendere la nostra vita dignitosa e di dare sempre l'esempio ai nostri figli di coerenza e di giustizia, perché c'è bisogno di avere giustizia per avere la libertà che noi tutti vogliamo godere. Ciao a tutti da Luca Scantamburro.